Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I paesi frugali potremmo, vediamo un po'. Ci sono tanti piatti italiani che potrebbero piacere ai miei amici dei paesi frugali. Forse suggerirei loro di condividere un bel tiramisù. Così ci tiriamo su noi e tiriamo sull'Europa. Speriamo che basti un tiramisù, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questo almeno ha detto, ha proposto il Presidente del Consiglio Conte in una lunga intervista oggi in una TV spagnola, dove ha detto molte altre cose che utilizzerò anche come passaggi per capire un po' a che punto sta il governo, la tenuta della maggioranza di fronte a tante sfide. Naturalmente la gravissima crisi economica, il negoziato in Europa per i fondi europei e poi anche questa questione dell'ASPI, di cui abbiamo parlato lungamente ieri, delle concessioni autostradali, con la lettera della ministra dei trasporti al sindaco di Genova Bucci, e poi proprio mentre eravamo in diretta l'arrivo della decisione della Consulta, che ha detto che è stato legittimo escludere ASPI, Autostrade per l'Italia di Benetton, dalla ricostruzione del nuovo ponte. Poi oggi di nuovo una serie, uno strascico delle polemiche, ma soprattutto il vertice tra i vertici, scusate il bisticcio di parole, di Autostrade per l'Italia e il governo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Vediamo che cosa ne è conseguito. Un ultimatum del governo di cui parleremo. Poi fra le molte altre cose anche ci occuperemo della questa ordinanza del ministro della Salute Speranza che blocca i voli da 13 paesi. Capiremo quali sono questi paesi, in che cosa consista poi questo blocco, quali saranno i controlli. Ne parlerò con la sottosegretaria alla salute Zampa. Quindi non perdete neanche un minuto di Effetto Notte. Potete scrivere i vostri commenti, lo sapete come sempre, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i WhatsApp al solito numero, che è il 349 238 6666. La situazione del coronavirus in Italia: salgono i nuovi contagi, più 229, 12 i morti. E l'Italia blocca l'ingresso a chi proviene da 13 paesi. Fermato alla stazione Termini, oggi è denunciato un uomo del Bangladesh che ha violato la quarantena. Per parlarne sarà ospite Effetto Notte la sottosegretaria alla salute Zampa. Il Covid-19 nel mondo: sono oltre 550.000 le vittime di coronavirus, secondo un calcolo dell'agenzia France Press basato su dati ufficiali. La metà delle vittime è stata registrata nei 4 paesi più colpiti, e cioè Stati Uniti, Brasile, Gran Bretagna e Italia. L'ultimatum del governo ad Autostrade per l'Italia: nuove proposte entro il fine settimana o sarà revoca delle concessioni. Stati Uniti: la procura di New York può ottenere le dichiarazioni fiscali di Donald Trump, lo ha deciso la Corte Suprema, che dice il presidente non ha l'immunità. Calcio: stasera per l'Inter l'esame del Bentegodi, spareggio, salvezza invece tra Spal e Udinese. Partiamo quindi come sempre dai dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Sale il numero dei nuovi contagiati, sono 229 nelle ultime 24 ore, ieri erano 193. Il totale quindi dall'inizio di contagiati è 242.363 in Italia. I morti sono stati nelle ultime 24 ore 12 contro i 15 di ieri. Complessivamente le vittime quindi sono così diventate dall'inizio dell'epidemia in Italia 34.926, sono i dati forniti oggi dal Ministero della Salute. E un'ordinanza del Ministero della Salute e Speranza dispone il divieto di ingresso per chi arriva da paesi a rischio, divieto di ingresso e transito in Italia per chi nei 14 giorni antecedenti ha soggiornato o transitato in 13 paesi, che sono Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia e Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Nel mondo, ha detto Speranza, la pandemia è nella sua fase più acuta, non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi, e ne parleremo, dicevo, con la sottosegretaria alla salute Zampa. Ed è intervenuto il commissario straordinario all'emergenza Arcuri sulle scuole, ha detto serviranno 10 milioni di mascherine al giorno. Queste mascherine verranno distribuite e rese a disposizione gratuitamente del personale docente e non docente e degli studenti. Utilizzeremo, ha detto Arcuri, una parte della produzione nazionale per garantire che 10 milioni di studenti abbiano tutti i giorni una mascherina gratis. E poi ha anche detto stasera, sempre Arcuri, emaniamo il bando per una procedura pubblica europea per acquistare 2 milioni di test sierologici da somministrare al personale docente e non docente prima della riapertura delle scuole. Vi ricordate, in questi giorni ne abbiamo parlato col presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Per somministrarli, ha detto Arcuri, ci avverremo dei medici di famiglia, delle ASL e dei distretti sanitari. L'operazione verrà ripetuta nel corso dell'anno con delle cadenze in base all'evoluzione della pandemia. E ora il coronavirus nel mondo. Sono oltre 550.000 le vittime di coronavirus. Secondo un calcolo dell'agenzia France Press, basato su dati ufficiali, la metà delle vittime è stata registrata nei 4 paesi più colpiti, quindi Stati Uniti con 132.309, Brasile 67.964, Gran Bretagna 44.517 e l'Italia con 34.914 morti. Con 201.124 morti, l'Europa resta il continente più colpito. E a proposito di Europa, prima in Catalogna, ora mascherina obbligatoria da lunedì anche alle Baleari, in tutti i luoghi pubblici, con l'eccezione di spiagge e piscine. La Danimarca, che le aveva sempre ritenute non necessarie, ora raccomanda di usare le mascherine, come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Epidemia in ripresa anche nella zona della Loira, in Francia, dove i contagi sono quadruplicati dal 25 giugno. Adesso lasciamo per il momento il tema del coronavirus, andiamo sul dossier autostrade con l'incontro di oggi con il governo. Ultimatum del governo ad Autostrade per l'Italia. I tecnici dell'esecutivo, nell'incontro appena concluso al MIT, hanno spiegato ai vertici di Aspi e Atlantia di ritenere non soddisfacenti per l'interesse pubblico le proposte arrivate dal gruppo a fine maggio e di aspettarsi dunque una nuova proposta entro il fine settimana su riduzione delle tariffe, più risorse a titolo di indennizzo, più investimenti, più manutenzione e controlli. In caso contrario, come ha spiegato il Premier Conte, si procederà alla revoca della concessione. Se la proposta da Aspi arriverà e sarà ritenuta dal governo soddisfacente, si potrà passare al secondo punto chiave, la riduzione delle quote del gruppo Benetton dall'attuale 88% a una minoranza. Il governo sembra disposto ad accettare di non revocare la concessione se i Benetton usciranno dal controllo. Ma qui il nodo è a quale valore la capogruppo Atlantia, gruppo Benetton, dovrebbe vendere le azioni di Aspi, che oggi hanno perso in borsa l'8,3% e hanno dimezzato il loro valore rispetto al 2018. E ancora meno valgono dopo la norma del milleproroghe che ha ridotto l'indennizzo da pagare ai concessionari in caso di revoca. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Il nodo della concessione ad Autostrade agita le acque nella maggioranza. Il Movimento 5 Stelle spinge per la revoca e in caso contrario tra i pentastellati c'è anche chi minaccia una crisi di governo, così il viceministro Buffagni. Io credo che sia fondamentale che Benetton non si gestiscano più le autostrade, io credo che sia fondamentale garantire che la manutenzione venga fatta da gente seria, i controlli vengano fatti in maniera seria. Basta con il populismo, è impossibile cacciare i Benetton, sostiene invece Renzi di Italia Viva, mentre il Partito Democratico, anche se preoccupato per il rischio di un contenzioso giudiziario, chiede comunque di arrivare presto ad una soluzione. Il centrodestra va invece all'attacco e parla di teatrino imbarazzante nella maggioranza. Stanno bloccando il paese, dice il segretario della Lega Salvini. Se il PD vuole prorogare, i 5 Stelle vogliono revocare, l'importante è che facciano qualcosa, perché stanno bloccando opere pubbliche in tutta Italia, stanno bloccando decine di miliardi di euro di opere pubbliche, stanno rallentando la vita in tutto il paese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E le tensioni per la concessione di Autostrade per l'Italia pesano sulla controllante Atlantia. Il titolo ha chiuso in borsa a Milano con un ribasso dell'8,2% in una giornata negativa per Piazza Affari, che ha registrato un calo che ha sfiorato il 2%. E torniamo sul coronavirus e in particolare sulle conseguenze economiche della pandemia. C'è il rischio di un autunno caldo. A esprimere preoccupazione è la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Tra settembre e ottobre, dice ai microfoni di Agorà Estate, si vedranno gli effetti della grave crisi economica scatenata dal coronavirus. Noi vediamo negozi chiusi, vediamo cittadini che tante volte non hanno la disponibilità neanche di provvedere ai propri bisogni quotidiani. Il governo, puntualizza Lamorgese, ha messo in atto tutte le iniziative necessarie di sostegno, ma il rischio di tensioni sociali è concreto e, sottolinea la ministra, c'è un atteggiamento di violenza contro la polizia assolutamente da condannare. Contro gli effetti della crisi, alla Camera, intanto, è stato approvato il decreto rilancio. Incassata la fiducia, è arrivato il voto definitivo. Ora il provvedimento passa al Senato per il via libera definitivo previsto la prossima settimana. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nel decreto rilancio è prevista anche la proroga delle concessioni degli stabilimenti balneari fino al 2033. Una vicenda antica questa su cui vigila Bruxelles, dice proseguiamo la discussione con le autorità italiane sulle concessioni balneari, la legge italiana sia conforme al diritto dell'Unione Europea, questa è la richiesta della Commissione Europea, cioè quindi di garantire la concorrenza, anche perché diciamo che per le concessioni chi ha la concessione paga veramente poco rispetto poi al guadagno in moltissimi casi. E a proposito di bonus vacanze, in meno di una settimana sono stati oltre 400.000 i bonus emessi per un controvalore di 187 milioni di euro. A dare i dati il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini. Per quanto riguarda invece i contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese, sempre secondo Ruffini, dal 15 giugno sono più di 890.000 gli ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo di quasi 3 miliardi di euro. Entro la fine della settimana verranno effettuati altri 480.000 ulteriori accrediti per altri 1,4 miliardi. All'estero adesso, un presidente in carica, parliamo degli Stati Uniti, non ha immunità e quindi non può sottrarsi a indagini penali. Lo ha stabilito la Corte Suprema americana affrontando uno dei due casi pendenti per ottenere le dichiarazioni fiscali di Donald Trump. Per questo poi ci collegheremo con gli Stati Uniti. Invece in Corea del Sud il sindaco di Seoul, della capitale, Park Won-sun, è stato ritrovato morto, lo riporta l'agenzia Yonhap citando la polizia. L'allarme era stato dato dalla figlia che aveva ricevuto un suo messaggio di cui non è stato rivelato il contenuto. Park, 64 anni, era sindaco di Seoul dal 2011 e a giugno è iniziato il suo terzo e ultimo mandato. Questa mattina non si è presentato al lavoro e ha cancellato un incontro con un funzionario presidenziale nel suo ufficio al municipio di Seoul. Era stato accusato di molestie. Di ogni Italia con il caso dei camici in Lombardia. La Procura di Milano accende un faro sul presidente della regione Attilio Fontana nell'inchiesta sulla fornitura da 500.000 di euro di camici e altro materiale da parte della Dama, società di cui la moglie del presidente della regione detiene una quota e di cui il cognato Andrea Dini è titolare. Quest'ultimo è indagato col direttore generale di Aria SPA, la centrale di acquisti della regione Lombardia, Filippo Bongiovanni. Il reato ipotizzato è turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. Dai primi atti dell'indagine sarebbero emersi elementi che fanno ipotizzare un interessamento di Fontana, allo stato non indagato, nella fase di trasformazione dell'ordine di acquisto diretto poi in donazione. Cronaca ancora, si vanno chiarendo le circostanze che hanno portato alla morte dei due amici di 15 e 16 anni a Terni. Ha ammesso davanti al giudice per le indagini preliminari di Terni di aver ceduto per 15 euro mezzo flacone di metadone ai due ragazzi, poi morti nella notte. È un uomo di 41 anni sottoposto a fermo con l'accusa di morte come conseguenza di altro delitto. Le ammissioni sono arrivate nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto. Secondo la ricostruzione fornita dall'indagato nell'interrogatorio che si è svolto nel carcere di Terni, i due ragazzi hanno quindi assunto insieme il metadone. Lo hanno fatto in un parco vicino a casa di uno dei due. In base a quanto sta emergendo dalle indagini, confermato dallo stesso arrestato, non sarebbe stata la prima volta che l'uomo cedeva metadone ai ragazzi di 15 e 16 anni che poi, la mattina seguente, sono stati trovati senza vita nelle loro case. L'interrogatorio davanti al GIP è durato circa un'ora. La procura di Terni ha chiesto la convalida del fermo, mentre il difensore dell'accusato non ha avanzato alcuna istanza. Domani ci saranno l'autopsia e gli esami tossicologici sui corpi dei due giovanissimi. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Perugia. Alleggeriamoci adesso col nostro Carlo Genta, che ci parlerà delle partite in corso. Caro Carlo, ciao. Ciao Roberta, sì, la partita in corso che è a confronto salvezza con l'Udinese che sta vincendo già sul campo della Spal. Così andando le cose, il gol di De Pole di Okaka per l'Udinese, così andando le cose l'Udinese si chiuderebbe alle spalle ogni problema di salvezza, mentre per la Spal è quasi Serie B. Quindi questa è la prima partita della giornata, che si sta chiudendo tra poco, si chiuderà tra poco. Poi ci sarà il ritorno in campo dell'Inter, molto atteso, gioca a Verona, campo non semplice perché il Verona sta facendo uno splendido campionato, l'Inter riduce la sconfitta con il Bologna e quindi grande attesa per vedere quella partita lì, soprattutto inizio 20:45. Che allora ci racconterai tu più tardi. Grazie Carlo Genta, tra poco. Benissimo, allora. Buona visione, buona partita. Io mi fermo momentaneamente, lo sapete, per aggiornare invece chi si sta muovendo su strade e autostrade, poi torno ratta come la folgore a leggere i vostri commenti e naturalmente a cominciare gli approfondimenti con gli ospiti. Qualcuno che dice che non trova il podcast, va bene, poi comunque guardate sul sito di Radio 24, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Perché solo qui le trovate le notizie, un insieme ricchissimo di aggiornamenti in diretta, di sintesi della giornata e di approfondimenti e chiarimenti con gli ospiti, di argomenti insomma sempre piuttosto complessi, articolati, a volte addirittura ostici. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, come vi dico sempre, alla quale potete aderire senza indugio, oppure SMS e WhatsApp, più WhatsApp che altro, al 349-238-6666. A proposito del blocco di voli da 13 paesi, ordinanza del Ministro della Salute di oggi, di cui parleremo tra poco, Mario dice: per l'ingresso in Italia controlliamo gli aeroporti, le frontiere, i porti, e ultimamente alle nostre coste si accede anche con barche di fortuna. Questi chi li controlla spesso non hanno documenti, dice Mario. Questo lo chiederemo poi alla sottosegretaria alla salute Sandra Zappa. Ma sicuramente la popolarità è cresciuta e devo dire la verità, è cresciuto forse in questo senso, credo che quei sondaggi a cui le fa riferimento segnalano un rapporto di fiducia tra il governo e i cittadini. Ma la fiducia, al di là dei sondaggi, che poi lasciano il tempo che trovano, è anche il fatto che i cittadini hanno rispettato le regole. La comunità nazionale italiana ha offerto una reazione di grande responsabilità, coraggio, determinazione, si è sviluppato ancora di più quel senso di appartenenza a una medesima comunità. E io sono stato orgogliosissimo e sono orgogliosissimo di essere il Presidente del Consiglio del Popolo Italiano. Quindi Conte e la fiducia dagli italiani e per gli italiani. Il Presidente del Consiglio, l'avete sentito in una lunga intervista a una TV spagnola, oggi elogia le cittadine e i cittadini per quelli che sono stati i loro comportamenti e l'osservanza delle regole in questi mesi così difficili e drammatici, e in base ai sondaggi si compiace insomma di godere anche, non solo quindi di dare fiducia agli italiani, ma di godere la fiducia del popolo italiano. Saluto subito la nostra Barbara Fiammeri, bentornata cara Barbara. Grazie a voi, buonasera. Del Sole 24 Ore, però non mancano problemi e tensioni, come abbiamo più volte raccontato in questi giorni, all'interno della maggioranza di governo, e le sfide urgenti, decisamente complesse, che incombono sul governo, dai negoziati per ottenere i fondi europei legati alla crisi economica causata dal coronavirus, con l'allarme oggi della ministra Lamorgese, che ha detto la ministra dell'Interno, c'è il rischio di grandi tensioni in autunno per l'impoverimento insomma di tanta parte della popolazione, e poi in queste ore naturalmente ieri vi ho raccontato a lungo della questione del tema delle concessioni stradali ad Aspi e quindi del ponte di Genova, con questa lettera della ministra De Micheli che è inviata al sindaco di Genova Bucci, in cui dice, conferma che insomma il ponte viene affidato pro tempore, quindi momentaneamente, sempre ad Aspi, Autostrade per l'Italia. E proprio ieri poi vi dicevo che è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale che dice che rigetta il ricorso di Aspi e dice è stato legittimo il fatto che il governo abbia escluso Aspi, Autostrade per l'Italia, controllata da Benetton, dalla ricostruzione del nuovo ponte. E quindi ieri, come sai Barbara, tutte le polemiche, in particolare il Movimento 5 Stelle che ha detto non arretreremo neanche di un centimetro, oggi di nuovo il Movimento 5 Stelle, il PD che però dice noi abbiamo sollecitato da mesi e mesi il governo e il presidente Conte, del Consiglio Conte, di prendere una decisione su questo argomento. Ieri c'era anche qui presente, ospite in collegamento, il presidente della regione Liguria, Toti, molto avvelenato nei confronti del governo, perché dice sono stati 2 anni di menzogne, di bugie, eccetera, eccetera. Quindi ognuno con le proprie ragioni, le proprie motivazioni, a seconda naturalmente anche della propria posizione politica. Allora, oggi c'è stato questo vertice al Ministero dei Trasporti con Autostrade per l'Italia, erano presenti i vertici di Autostrade per l'Italia, e il governo ha dato un ultimatum, ha detto o entro il fine settimana arrivano delle proposte che siano nell'interesse pubblico, a proposito di compensazioni, di manutenzione, eccetera, eccetera, oppure si va verso la revoca. Barbara, tu di tutta questa vicenda che cosa puoi dire? Ma che il governo è stato molto, ma molto aiutato dalla Corte Costituzionale con la sentenza di ieri, perché la Corte Costituzionale che cosa ha detto? Ha detto che il governo, quando ha deciso di estromettere Autostrade dalla ricostruzione del ponte, aveva tutte le ragioni per deciderlo. Questo perché dico è importante? Perché fa capire che anche qualora il governo andasse, come ha preannunciato Conte, verso una revoca della concessione, cioè quella minaccia, quel timore di penali miliardari a carico dello Stato, insomma, si è molto ridotto dopo la pronuncia di ieri della Corte, cioè perché evidentemente la Corte lo dice, cioè la straordinarietà del momento, quello che è avvenuto, hanno giustificato in non prendere in considerazione la proposta di Autostrade per ricostruire il ponte, e così, cioè, per deduzione si può dire che anche un'eventuale revoca della concessione, insomma, non vedrebbe lo Stato italiano penalizzato quanto pareva inizialmente. Anche se, allora, Barbara, scusami, perché ho detto questa cosa? Perché poi ti faccio sentire Toti, che ieri ha detto non è vero, non cambia nulla, perché si riferisce semplicemente a quando il governo, sì, lo Stato ha affidato. La sentenza non cambia, però l'indicazione della Corte è chiara, insomma. Cioè, in sostanza sta dicendo che il ruolo di Aspi era tale per cui il governo ha fatto bene a tenerla fuori dalla ricostruzione, sì, del ponte. E quindi, insomma, anche rispetto a una rescissione di quello che è il contratto, cioè una revoca della concessione, ti fa pensare che effettivamente le ragioni per la revoca ci siano, e come. Allora, tant'è che ieri Conte ha di nuovo detto se entro questo weekend, come tu ricordavi, Atlantia, Benetton non decidono, a questo punto scatta la revoca. E io credo che questa volta, dico finalmente nel senso del tempo, non entro nel merito perché qui ogni volta si dice faremo ad horas, immediatamente, poi non si decide mai niente. Questa volta forse la decisione ci sarà. Adesso bisogna vedere la controproposta di Benetton, nel senso che ancora non siamo arrivati a Dama, cioè ancora stasera non possiamo dire c'è la revoca, c'è l'accordo. L'accordo significa che i Benetton escono. Allora, l'ipotesi che si va facendo strada è quella di un aumento di capitale, è proprio una notizia che hanno trovato i miei colleghi del Sole 24 Ore, che abbiamo messo sul sito, cioè ci possa essere un aumento di capitale che diluisce sostanzialmente il peso dei Benetton all'interno di Aspi e che diventerebbe così di maggioranza con l'ingresso di azionisti pubblici, e quindi la maggioranza non sarebbe più dei Benetton. Insomma, adesso però tutto questo poi va visto, perché è in atto una contrattazione, stiamo parlando di miliardi di euro, quindi di una società importantissima con migliaia di dipendenti, quindi la situazione è delicata anche per quanto riguarda i dipendenti. Sì, non Barbara, si possono fare anticipazioni, pensare, dobbiamo veramente vedere poi avere le carte chiare e in regola. Sì, Barbara, sì. C'è adesso il sottosegretario PD all'ambiente Roberto Morassut che dice: sì, dalla gestione di Autostrade per l'Italia sono emerse gravi inadempienze, il governo ha il diritto di valutare la possibilità di una revoca o di una radicale revisione delle concessioni, come dicevi tu, quindi per tutelare l'integrità del patrimonio pubblico, la sicurezza dei cittadini e la credibilità del regime concessorio nel rapporto tra pubblico e privato. Mentre sai che il Movimento 5 Stelle è estremamente invece radicale. Buffagna, oggi sottosegretario allo sviluppo del Movimento 5 Stelle, ha detto: è fondamentale che Benetton non gestiscano più le autostrade, che venga garantita la massima sicurezza sulle nostre infrastrutture. Su questi temi bisogna andare avanti ormai con coraggio. No, io non vedo una differenza, Roberta, tra la posizione del PD adesso e quella dei 5 Stelle. Cioè, mi sembra che da questo punto di vista ormai si è capito che questa storia in qualche modo bisogna metterci un punto, cioè tirare una linea. Anche perché tra l'altro il ponte si inaugura il 29 luglio, quindi capire se è andato in gestione. Ma infatti per questo dicevo benvenuta la sentenza della Corte, perché quantomeno costringe il governo a decidere. E l'altra sentenza, quella di oggi, sul decreto sicurezza, il primo decreto sicurezza di Salvini, l'altra sentenza oggi della Corte Costituzionale, anche questa impone su un argomento altrettanto, come dire, caldo, almeno per quanto riguarda la tensione che ha sviluppato all'interno della maggioranza, imporrà al governo di decidere, perché i giudici intervengono perché c'è la latitanza della politica, o il temporeggiamento della politica. Senti, i maligni, Barbara, dicono che da autostrade passa anche il destino, le decisioni sul MES, il meccanismo europeo di stabilità, no? Quindi sui fondi che per esempio all'interno del governo il PD vorrebbe per l'Italia, per la sanità, mentre il Movimento 5 Stelle dice che è una trappola, così come anche l'opposizione di Lega e Fratelli d'Italia, mentre sarebbe favorevole, come sappiamo, Forza Italia di Berlusconi. Allora, secondo i maligni, dicevo, da autostrade passa anche il destino del MES, perché tra le fila dei parlamentari del Movimento 5 Stelle si mormora, tu che sei addentro alle segrete stanze dovresti saperlo, eppure del centrosinistra, che se passasse la revoca della concessione ad Aspi, l'ala più dura del Movimento 5 Stelle si ammorbidirebbe sulla questione MES. È vero, secondo te, Barbara? Allora, tutto si può dire e ci sta questa lettura, nel senso che sono sicuramente la revoca ad autostrade, come dire, preme di più ai 5 Stelle, rispetto anche perché elettoralmente parlando è più comprensibile. Cioè, a un italiano gli parli del MES, secondo me non capisce, tranne una sparuta minoranza, di che cosa stiamo parlando. Mentre se gli dici: ma togliere la concessione Benetton dopo la caduta del Morandi, secondo me lo capiscono tutti, e quindi la risposta, come dire, è più semplice, e quindi elettoralmente probabilmente paga di più. E poi comunque avevano fatto una vera e propria battaglia sulla revoca della concessione. Per quanto riguarda il MES, però, io ti dico che secondo me siccome la partita si sposta, questa invece viene rinviata, cioè il MES è rinviato all'autunno. Sì, a settembre. Invece su questo si deve decidere subito, quindi è difficile che ci sia un passaggio diretto da una all'altra cosa. Però, Barbara, intanto ricordo che sul caos autostrada in Liguria la Procura di Genova ha aperto un fascicolo, e intanto il presidente di Regione Giovanni Toti chiede i danni per tutti gli intoppi. Anche questa vicenda è allucinante. Cioè, se pensiamo che siamo stati 2 mesi in lockdown, insomma, che i lavori, cioè chi faceva lavori che erano importanti, ha continuato a lavorare, anche c'erano cantieri stradali nonostante il lockdown, infatti. Non si capisce perché si è arrivati a questo punto. Cioè, già è un'estate sciagurata, già il turismo straniero non c'è. Se adesso impediamo anche ai turisti italiani di andare in Liguria perché le autostrade vanno a senso unico alternato, veramente, cioè, è una follia, è folle. Barbara, però oggi, fra le tante dichiarazioni che Conte ha fatto a una TV spagnola, ha detto anche che non vede all'orizzonte un rimpasto di governo. Però si continua a vociferare, magari frasi, poi Berlusconi irritato dice che è stato frainteso, eccetera eccetera, che Berlusconi possa far parte di una maggioranza alternativa se succedesse qualcosa, se il governo entrasse in crisi. Sentiamo addirittura Prodi che cosa ha detto ieri sulla possibilità che, insomma, Berlusconi faccia parte di una maggioranza con il PD, per esempio. Non è certo un tabù, anche perché, come ho già più volte detto, è la vecchiaia porta la saggezza. Quindi Prodi ha detto che non sarebbe un tabù e Marcucci, che è capogruppo, come sappiamo, come sai, del PD al Senato, ha detto: le idee di Forza Italia possono essere utili, credo si debbano superare gli schemi classici. Con il Consiglio europeo dei prossimi giorni comincerà una fase nuova, io penso alla straordinaria partita delle riforme che aprirà una grande opportunità in Italia, dice Marcucci. Ecco, in quel contesto le idee e i valori di una parte di Forza Italia, quella rimasta legata al Cavaliere, possono essere di grande utilità. Allora, io sinceramente a un allargamento così implicito di questa maggioranza a Forza Italia non credo. Anche Renzi stasera ha detto non lo vedo proprio Berlusconi. Non ci credo. Io credo però a un'altra cosa invece. Io credo che non ci saranno le elezioni, a meno che non c'è un, come dire, Tiene la maggioranza, vuol dire la maggioranza tiene PD, Movimento 5 Stelle no, e non poi lo so, secondo me potrebbe esserci un nuovo governo, un'altra maggioranza, questa sì con Forza Italia, cioè non sappiamo quello che succederà, ma dico soltanto questa, faccio soltanto presente una piccola annotazione poi saranno i nostri ascoltatori a decidere quanto dar valore a quello che sto per dire, ma noi il 20 settembre voteremo il taglio dei parlamentari. Ok? Allora, lo scorso agosto il Salvini del Papete che diceva andremo al voto, eccetera, eccetera, è stato nel giro di una settimana rimesso, no, nell'angolo e si è trovata con la mossa del cavallo di Renzi una nuova maggioranza. Quindi tu dici, allora io sinceramente, se quel Parlamento un anno fa si è sbrigato a trovare una nuova maggioranza per evitare di andare al voto, soprattutto per evitare di andare al voto, resisterà. Io credo che un Parlamento, lo stesso Parlamento, che non solo non voleva andare al voto, ma che rischia di avere meno posti a disposizione, sia perché alcuni partiti, a partire da Forza Italia, cioè Forza Italia oggi ha un numero di parlamentari superiore a quello del Partito Democratico, ma noi sappiamo dai sondaggi che in termini di voti non sono paragonabili. Quindi immaginiamo quello che potrebbe accadere a Forza Italia se si andasse alle elezioni. Allora io mi chiedo, ma veramente il tacchino si condanna da solo al suicidio? A presentarsi, io sinceramente sul a questi tacchini non kamikaze non ci credo. Senti, quindi Barbara, penso che non si andrà a votare. Ti faccio sentire Salvini su Berlusconi, sentiamo cosa dice. Berlusconi l'ho sentito ieri, è e rimane convintamente nel centrodestra. Capisco la disperazione di Prodi e del PD che ormai si sentono scivolare la poltrona da sotto le natiche, però centrodestra è unito, è compatto, sta lavorando e quando gli italiani potranno votare noi torniamo a governare in maniera più seria e concreta di quanto non stiano facendo gli amici di Prodi in questo momento. Però per chiudere, Barbara, abbiamo ancora 24 secondi, ti voglio far sentire ancora Salvini che dice che i valori praticamente si paragona alla sinistra, al Partito Comunista di Berlinguer. Sentiamo. I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, lavoro, fabbriche, operai, insegnanti, agricoltura, gli artigiani, adesso sono stati raccolti dalla Lega, quindi se il PD chiude in botteghe oscure e la Lega apre, per me è un bel segnale. Quindi la Lega in realtà è l'erede di Berlinguer. Zingaretti oggi, il segretario del Partito Democratico, ha twittato: Salvini come Berlinguer, che pena, chiamate il 118. Dammi un commento lapidario, Barbara. No, due cose ti devo dire, lapidarie entrambe. Sì. Allora, la prima è che Salvini che dice che andremo al voto e che Berlusconi non lo farà mai, è lo stesso Salvini che aveva detto che lui un governo con i 5 Stelle non l'avrebbe mai fatto e poi l'ha fatto. Quindi mai in politica dire mai. Mai in politica dire mai. Due. La seconda, per quanto riguarda Berlinguer, insomma, Salvini è un uomo di comunicazione, è uno che dice che i suoi autori preferiti, i suoi cantautori preferiti, io questo lo cito sempre, sono De André e Guccini. Cosa c'entrino col Salvini di oggi? De André e Guccini, io non lo so, però lui lo dice, crediamogli e crediamogli pure che sia l'erede di Berlinguer. Grazie Barbara Fiammeri, a ben presto. Ciao. Grazie, cara Barbara. A voi. Ciao Barbara. Vi lascio per una pausa, piccola pausa di riflessione con i vostri WhatsApp al 349-238-6666, dove un ascoltatore dice: il MES è complesso e gli italiani non sono in grado di capirlo, tranne pochi, il Ponte Morandi è più semplice da comprendere, eccetera, eccetera. E quindi fa un po' la stessa analisi di Barbara Fiammeri. Torno a Ratta come la folla. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Inutile dirvelo quindi che se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando, per avere sempre a quest'ora un quadro il più possibile chiaro e esauriente delle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero che vi racconto insieme agli ospiti. Adesso, dopo questa ampia pagina politica con tanti argomenti, voglio tornare sul tema del coronavirus e in particolare sulle misure che il governo sta approntando per prevenire rischi di nuovi focolai, di nuove ondate. Sapete che poi alcuni piccoli focolai, insomma, sono distribuiti già da qualche tempo un po' da nord a sud. Oggi il ministro della Salute Speranza ha emesso un'ordinanza che prevede un divieto di ingresso in Italia per chi arriva da 13 paesi a rischio virus. I paesi sono questi, sono Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia e Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Ha detto Speranza: nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta, non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani. Oggi tra l'altro è stato, per la cronaca, è stato fermato alla stazione di Termini un uomo di 53 anni del Bangladesh positivo al Covid che avrebbe dovuto essere in isolamento in quarantena. Ma voglio parlare di questa ordinanza con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buonasera, bentornata. Buonasera, no. Grazie. Quindi questa ordinanza prevede da questi 13 paesi che non possano arrivare voli in Italia, ma c'è qualche deroga, come c'era stato per esempio in questi mesi, per chi per motivi di lavoro, di salute deve venire, oppure è un blocco totale? È un blocco come quello che abbiamo fatto per il Bangladesh e questo blocco come quello che abbiamo già predisposto ieri, nel senso che, come lei sa, il volo che in questo caso arrivava da Dacca e che però aveva a bordo una numerosa rappresentanza del Bangladesh, i cittadini del Bangladesh sono stati fatti scendere ma risalire su un aereo che li ha riportati indietro. Questo evidentemente a questo correrà sommare un'azione a livello europeo, nel senso che noi vorremmo, e so che il ministro sta già lavorando in questa direzione, vorremmo evitare che i nostri respingimenti di voli, cioè il blocco dei voli diretti, venga girato da passaggi in Europa. Credo che questa volta il coordinamento dei paesi membri dell'Europa sarà più efficace e mi aspetto che l'Europa sappia ascoltare e capire di più, e quindi di evitare che avvenga ciò che avvenne per la Cina, in cui noi avevamo bloccato il volo diretto ma poi molta parte dei cinesi atterrava in altri paesi europei e arrivava apparentemente da un paese europeo. Quindi dice Zampa, ci vuole appunto un coordinamento, un intervento, un impegno europeo, sì, in modo che non ci siano scali poi in altri paesi e da lì non si capisce più da che parte effettivamente dei cittadini sono arrivati, no? E però per quanto riguarda per esempio Bosnia e Erzegovina o Moldova, che possono magari attraverso strade o con le macchine, con l'auto arrivare, come si possono fare questi controlli in modo efficace? I controlli alle frontiere ci sono anche quando si arriva con l'automobile, cioè bisogna fare dei percorsi molto complicati per evitare di essere intercettati. Credo anche che si possa eventualmente, con delle richieste argomentate, però prevedere allora semmai una quarantena, un tampone se le persone vengono per lavorare, se hanno già un posto di lavoro. In questo momento era indispensabile fare questa operazione perché davvero è stata, come dire, rimettere a rischio nuovamente i lunghi seri sacrifici che abbiamo fatto tutti insieme, sarebbe veramente una cosa assurda. In realtà in questa direzione vanno anche molti gli organismi internazionali, sovranazionali, l'OMS, le CDC, che è diciamo l'istituzione europea che presiede alla salute, quindi dovremmo trovare una unità di intenti. Io immagino che le persone informate anche del blocco non tentino di arrivare, di nascosto, mettendosi anche a rischio dal punto di vista delle violazioni, a quel punto che diventano ovviamente penali. Allora c'è questo ascoltatore che dice: non capisco, Roberta, almeno a livello sanitario blocchiamo chi arriva dall'Oman, dalla Bosnia, e diamo libero accesso dagli Stati Uniti. Mi sembrava che però ci fosse, anche per quanto riguarda gli Stati Uniti, forse una cosa più a livello europeo, sottosegretario Zampa. In realtà no, c'è una spiegazione scientifica. Questa spiegazione è data dal non sono state individuate casualmente o diciamo così leggendo i giornali o non so, andando per simpatia e antipatie, c'è un'incidenza che è stata misurata di percentuale di popolazione, di quota, diciamo, di positivi al Covid su 100 abitanti. E in base a un calcolo matematico, quindi, che è stata fatta, questa è stata, diciamo, compilata questa lista. Sono criteri abbastanza complicati. Io ho visto la nota che il direttore generale nostro, già noto credo ai cittadini italiani, il professor Rezza, che un tempo prima di venire a fare il direttore adesso da noi da poco, era all'Istituto Superiore di Sanità, è lui che ha predisposto questa lista tenendo conto appunto di parametri che sono internazionali. Chiaro. Quindi la scelta è stata fatta con un criterio scientifico. Senta, leggevo ulteriormente per questa ordinanza del ministro Speranza che i cittadini che nei 14 giorni precedenti sono transitati o hanno soggiornato in quegli stati non potranno entrare, quindi anche che siano semplicemente transitati non potranno entrare in Italia. Per quanto riguarda i nostri connazionali, se dovessero trovarsi in quei paesi e voler tornare? No, non vale sicuramente per i nostri connazionali. Per i nostri connazionali c'è la possibilità di rientro, evidentemente c'è l'obbligo della quarantena. Senta, oggi il professor Crisanti, che sappiamo è quello che ha coordinato, gestito il modello Veneto per il contenimento della pandemia, ha detto: lo scenario di oggi era prevedibile, il problema sarà in autunno e in inverno, avremo molti più casi con dimensioni più importanti. Quindi si paventa di nuovo questa nuova ondata in autunno-inverno, e lo stesso ha detto Arcuri, commissario straordinario all'emergenza. Che cosa dice lei? Noi lavoriamo tenendo conto di questa possibilità, però una possibilità non è una probabilità, nel senso che noi riteniamo che in questo momento sia possibile, e il ministro non ha mai nascosto di temere che ci sia un ritorno. Di che dimensioni possa essere, quanto possa essere grave, adesso certamente è sotto gli occhi di tutti il fatto che sia per la capacità di prendersi carico delle persone, sia per la capacità di avere compreso qual è il tipo di terapia più efficace, perché nel frattempo non è vero che è rimasto tutto uguale. Noi non siamo oggi gli stessi della partenza. Qualcosa si è imparato, insomma, siamo certamente più preparati, sì, e più attrezzati. Chiaro, è quindi evidente a tutti, basta guardare le percentuali tra quelli che si ammalano e quelli che finiscono in terapia intensiva, non c'è le più nulla di simile cambiate a ciò che abbiamo visto. Bene, quindi questo ci conforta. Benissimo, la ringrazio, grazie e buon lavoro. Grazie, Sandra Zampa. A lei, buonasera. Grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Andiamo adesso oltre oceano e ci colleghiamo con il nostro Marco Valsania da New York. Caro Marco, buonasera. Stati Uniti, da cui arriva la notizia oggi della decisione della Corte Suprema che ha decretato che il presidente americano non ha l'immunità e che quindi si può procedere per quanto riguarda, insomma, delle pendenze nei suoi confronti relativamente alle sue dichiarazioni fiscali. Esatto, sì. Che era una cosa che si portava dietro Trump dall'inizio della sua campagna elettorale, se non sbaglio, no? Che ci fossero, diciamo, dei dubbi, delle ombre. Esatto, sono inchieste, diciamo, e sospetti, inchieste che risalgono alla campagna elettorale, alla sua elezione, e che sono trascinate in questi anni tra richieste, diciamo, tra indagini lanciate, soprattutto due tipi di, diciamo, di inchieste: una indagine della procura distrettuale di Manhattan e un'altra, diciamo, indagine da parte del Congresso. Ecco, la Corte Suprema ha emesso due sentenze su entrambe le cose. lo schiaffo a Trump è arrivato soprattutto sulla, nel caso diciamo, delle indagini della procura di Manhattan, che ha chiesto di poter visionare appunto per le proprie indagini, poter proseguire le proprie indagini, di visionare le dichiarazioni dei redditi di Trump, anni di dichiarazioni dei redditi e altre documentazioni finanziaria. Trump si era opposto, ecco, la procura, la Corte Suprema ha deciso chiaramente che Trump non è immune, non può non consegnare quei documenti. Però alla Marco, procura. Vedo che la portavoce della Casa Bianca, McKinney, ha detto: se si leggono le motivazioni, le sentenze della Corte Suprema sono una vittoria per la presidenza. Il presidente non ha nulla da nascondere, le sue dichiarazioni dei redditi sono ancora oggetto di ispezioni, le renderà note quando saranno finite. E diciamo che così non è proprio, nel senso che chiaramente diciamo una sconfitta per Trump, nel senso che la procura potrà procedere con la richiesta di consegna, la richiesta diciamo allo studio contabile di Trump di consegna delle dichiarazioni dei redditi. Ora, siccome i casi tornano ai tribunali di competenza di grado inferiore, gli avvocati di Trump potranno ancora sollevare ulteriori obiezioni e quindi la cosa potrebbe ancora trascinarsi. Quindi in questo senso Trump diciamo, potrebbe ancora trascinare la vicenda a lungo e oltre le elezioni diciamo, di novembre. Mm. Oltretutto la procura, diciamo, la procedura diciamo, di inchiesta nell'ambito del Grand Jury prevede comunque la segretezza, quindi questi documenti non saranno resi noti. Sarebbero stati resi noti in ambito delle inchieste congressuali, ma in quel caso la Corte Suprema ha detto che Trump non è tenuto a consegnare i documenti. Trump, le banche e lo studio contabile di Trump non sono tenuti a consegnare quei documenti al Congresso perché c'è un problema di separazione dei poteri e quindi diciamo la Corte di grado inferiore deve precisare meglio i criteri di queste indagini per poter proseguire. Okay. Grazie Marco Balsani. Ciao Marco, abbiamo sempre tempi molto stretti. Ciao Marco, soprattutto verso il finale perché c'è anche il nostro Carlo Genta che ci deve dire come sta andando la partita Verona-Inter dopo che è finita Spalludinese, vero Carlo? Sì, in Serie A maschile 0-3, quindi Udinese che archivi i problemi di salvezza, Spal sempre più inguaiata ai limiti dell'impossibilità di salvarsi ormai. Verona-Inter è iniziata da 7 minuti e 28 secondi, ma c'è subito sorpresa perché Verona dopo un minuto e mezzo è passata in vantaggio con gol di Lazovic, che ha battuto con troppa facilità la difesa dell'Inter, ha saltato sulla sinistra con troppa facilità Skriniar e quindi ha segnato il gol del vantaggio del Verona. Quindi è Verona 1, Inter 0 quando siamo al nono minuto di gioco, Roberta. Quindi già così subito all'inizio. Grazie carissimo Carlo Genta, domani lo ritrovate come sempre a tutti convocati alle 14. Ciao, buona serata. Ciao Carlo, ci sentiamo noi alle 22.